Radio 24 presenta Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Morena Rossi. Si dice che il tempo renda le cose inoffensive, che il ricordo colori ogni situazione passata di una nuova luce, che la distanza dagli eventi permetta di vederli da una prospettiva diversa. Ma cosa succede quando l'uomo interviene a modificare la storia a suo piacimento, gettando volontariamente nell'oblio parti fondamentali di essa? Oggi a Destini Incrociati si parla del prezzo che l'intuizione deve pagare quando viene a contatto con la realtà, di quando le idee, per quanto geniali e rivoluzionarie, si devono confrontare con la loro realizzazione, mettendo necessariamente in campo interessi economici. Oggi parliamo di due grandi uomini, ma con visioni totalmente distanti sull'utilità delle loro scoperte, distanti almeno quanto le loro terre d'origine. Partiamo dal vecchio continente. In un piccolo paese dell'allora Serbia e dell'attuale Croazia, Žmiljan, la notte tra il 9 e il 10 luglio del 1956, annunciato quasi profeticamente da un furioso temporale, nasce Nikola Tesla. I lampi che illuminano il cielo, rilasciando al terreno tutta la loro energia, sembrano quasi anticipare il suo destino. Il padre, prete ortodosso, crede che sia un segno divino e vede per il figlio la strada della chiesa. Ma sarà l'influenza da parte della madre, donna di grande ingegno, discendente da una famiglia di inventori, che segnerà la strada del piccolo Nikola. L'eredità di quella notte di fulmini e tempesta si condenserà anche simbolicamente in un disturbo che lo seguirà per tutta la vita. Un disturbo fisico che precede ogni sua intuizione. Una sorta di allucinazione creativa, come ricorda lui stesso nella sua autobiografia. Ogni visione, ogni progetto che ho realizzato è stato preceduto da forti bagliori di luce che disturbavano la mia visione di oggetti reali e creavano confusione nei miei pensieri e nelle mie azioni. Poi tutto si faceva chiaro. Il mondo che lo circonda gli interessa particolarmente. La sua intelligenza è vivace. La biblioteca del padre gli consente di leggere e di informarsi su tutto. Tutti si accorgono fin da subito che la sua immaginazione è fuori dal comune, per non parlare della prodigiosa memoria, altra dote ereditata dalla madre. Ha solo 7 anni quando si costruisce sull'albero davanti a casa una casetta di legno dove poter fare alcuni esperimenti. Il suo primo laboratorio. Nei fiumi che scorrono vicino al paese, inoltre, posiziona piccole turbine di legno, anche se è solo un gioco. Sembra essere un tentativo abbozzato di qualcosa che di lì a qualche anno sarebbe diventato il suo futuro. Nikola vede prima nella sua mente e poi realizza. Riesce ad immaginare sempre tutto perfettamente. E la concretizzazione, poi, è solo un dettaglio, come afferma lui stesso. È assolutamente uguale per me, sia che faccia girare la mia turbina nel pensiero, sia che la provi nel mio laboratorio. Riesco a vedere se è bilanciata o meno. Non c'è differenza alcuna. I risultati sono gli stessi. Tesla però non dimentica di essere un bambino. Quindi in mezzo alle anticipazioni affettive del suo genio ci sono anche esperimenti visionari e azzardati, come quando decide di volare dal tetto di casa col solo ausilio di un ombrello. Dopo aver osservato attentamente gli uccelli, che anche in vecchiaia gli saranno amici fedeli, decide di provarci. Occhi chiusi, respiri profondi, concentrazione sulle sue ossa che vorrebbe avere cave come quelle di un volatile, apertura dell'ombrello e poi il lancio. Il tempo di sentire lo stomaco sobbalzare per il vuoto d'aria che si schianta al suolo. Rimedia qualche botta e una forte delusione. Anche se la storia gli darà ragione, come ricorda il direttore del museo Nikola Tesla di Belgrado, Vladimir Jelenković. A Tesla, come agli altri bambini, sarebbe piaciuto volare. L'antico sogno di Icaro ed Edalo, che però lui tentò di realizzare con un vecchio ombrello. Saltò dal tetto della casa dei suoi genitori e ovviamente cadde rovinosamente. Molti anni dopo progettò però il primo aereo a decollo verticale e più tardi l'industria militare europea realizzò un aereo del genere, ma molti non sanno che il progetto era proprio di Tesla. Ma ora è un bambino e ancora non sa cosa il destino ha in serbo per lui. Questo per lui è in un certo senso il suo primo vero fallimento, cosa alla quale si dovrà abituare in futuro. Anche se, come scrive sempre nella sua autobiografia, i nostri successi e i nostri fallimenti sono tra loro inscindibili, proprio come la materia e l'energia. Se vengono separati, l'uomo muore. Le idee che passano per la sua testa vanno tutte nella stessa direzione: rendere un servizio all'umanità. L'essere nato in un villaggio circondato solo da monti, alberi e fiumi, in una famiglia dai saldi principi, lo aiuta ad avere una visione del mondo pura. Dopo aver discusso a lungo col padre, che lo voleva prete, dichiara alla famiglia che i suoi interessi sono nella direzione della fisica e della matematica, sempre per migliorare la vita degli uomini. Lui ha ereditato l'ingegno della madre e proprio perché le sue capacità intellettive sono superiori alla media, le deve sfruttare. Come ricorda Massimo Sperini, docente di fisica e studioso di Nikola Tesla. Tesla si diploma in soli 3 anni e in brevissimo tempo acquisisce tutte le conoscenze scientifiche che gli permettono di padroneggiare tranquillamente sia le materie tecniche sia la matematica. Conosceva 9 lingue, conosceva la filosofia, si interessava di poesia e conosceva a memoria molti classici, tra cui Shakespeare, Voltaire e Goethe. Dopo il diploma è la volta dell'università. L'elettricità, questa grande novità, è la sua strada. Sente che può davvero dare il suo contributo in quel campo. Si iscrive così a ingegneria elettrica all'Università Tecnica di Graz, in Austria. Anche se non porterà a termine gli studi, la sua preparazione è ineccepibile, tanto che nel 1881 decide di trasferirsi a Budapest per lavorare come disegnatore e progettista all'Engineering Department del Central Telegraph Office. Il vecchio continente gli offre delle opportunità, ma Tesla sogna l'America. Sono gli anni in cui le ricerche sull'elettricità si intensificano. Elettricità come lasciapassare per il futuro, elettricità come simbolo di democratizzazione, come strumento per accorciare le distanze del mondo, per affrancare l'uomo in un certo senso dalla natura, annullando la distinzione tra notte e giorno. Insomma, sono gli anni più elettrizzanti, è il caso di dirlo, per uno spirito come Nikola Tesla, che ha già avuto diverse visioni su progetti che vuole realizzare in questo campo, sempre e solo nella direzione dell'umanità, come scrive nella sua autobiografia. La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità. Migliorare l'umanità significa anche metterla in contatto, favorirne la comunicazione. Non a caso il primo impiego di Nikola è proprio nella telegrafia, il primo sistema di comunicazione in grado di trasmettere l'informazione quasi istantaneamente su distanze geografiche, facilitando così lo scambio di idee e di conseguenza il progresso. Prima dell'avvento del telegrafo, l'unica forma di comunicazione possibile era l'invio fisico di corrispondenze. Quando negli anni 40 dell'Ottocento Samuel Morse inventa il primo telegrafo elettrico e inventa anche uno speciale codice che prende il suo nome e che permette di codificare le lettere alfabetiche in sequenze di impulsi di diversa durata, il mondo sembra davvero essere alla portata di tutti. Morse riesce a brevettare la sua invenzione e ottenere il supporto del governo. Il 24 maggio del 1844 si ha la prima trasmissione ufficiale tra le città di Washington e Baltimora. In breve tempo il sistema comincia a diffondersi in ogni continente, formando una fitta rete, grazie anche a ulteriori perfezionamenti, quali l'introduzione degli isolatori in vetro o ceramica, il filo di rame al posto del ferro e il sistema duplex, che consentono di aumentare la lunghezza delle tratte e aumentarne l'efficienza. Si forma anche una classe di operatori specializzati, alcuni dei quali arrivano a digitare il codice Morse a una velocità di 80-100 caratteri al minuto. Oltre a messaggi privati, sulla rete telegrafica viaggiano le notizie dei corrispondenti ai giornali. È l'epoca in cui nascono le agenzie di stampa, prima fra tutte la Reuters, che nel 1865 sarà la prima a dare l'annuncio della morte del presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln. Tesla vuole prendere parte a questa nuova era. Non mancano le sue intuizioni, precedute come sempre da improvvise visioni di bagliori di luce, quasi a simboleggiare fisicamente l'illuminazione della sua mente. E ogni cosa prende già la forma che poi avrà nella realtà. La sua mente progetta perfettamente ogni cosa. Un giorno, mentre passeggia per strada con un amico, ha l'intuizione per un motore e lo disegna con un bastone nella sabbia. È il primo motore elettrico a corrente alternata. Sta per cominciare il suo destino. Nikola sente che nell'aria c'è qualcosa da captare, e non solo nei fili che ormai costellano la terraferma, perché l'unico modo per trasmettere gli impulsi è ancora solo il buon vecchio filo, e la Terra è il luogo più sicuro e veloce dove posizionarlo. Il primo esperimento di un cavo sotto il mare viene effettuato nel 1845, all'interno della baia di Portsmouth. Qualche anno più tardi viene posato il primo cavo attraverso la Manica da Dover a Calais e si dovrà aspettare il 1866 per il collegamento tra Europa e Nord America. Insomma, i tempi sono maturi per trasformare il pianeta stesso in un conduttore, senza bisogno di ricorrere a chilometri di fili. L'elettromagnetismo sta solo aspettando che Tesla abbia uno dei suoi lampi di genio. Come scriverà nella prima pagina della sua autobiografia lo stesso inventore, le forze della natura devono essere incanalate. Lo sviluppo dell'uomo dipende dalle invenzioni. Esse sono il risultato più importante delle facoltà creative del cervello umano. Lo scopo ultimo di queste facoltà è il dominio completo della mente sul mondo materiale, il conseguimento della possibilità di incanalare le forze della natura così da soddisfare le esigenze umane. La grandezza delle innovazioni e delle scoperte si misura anche per l'impronta che sono in grado di lasciare sull'immaginario del proprio tempo. Vista da questo punto di vista, l'elettricità è la più straordinaria novità dell'Ottocento e il giovane ingegnere di origini serbe ci si vuole impegnare anima e corpo. Non è un caso che decida di trasferirsi, dopo le esperienze ungheresi, in quella che verrà definita la città delle luci, la Ville Lumière, un nome nel quale è condensato tutto lo spirito di un'epoca, nonché la promessa di grandi opportunità da cogliere. Farsi notare per Nikola Tesla non è difficile. Non solo perché le sue idee sono davvero geniali e lasciano tutti sbalorditi, ma anche perché il suo modo di fare è molto bizzarro. E si potrebbe dire lo stereotipo dello scienziato pazzo, con le sue manie, le sue visioni, i suoi riti. Nel 1882 arriva a Parigi. Abito scuro, camicia bianca dal colletto stondato e una bombetta in testa nel suo 1,90 m d'eleganza, con quei baffi scuri ad addolcire il viso spigoloso. Ha voglia di fare, Tesla, di dimostrare quanto può essere utile al mondo, all'umanità, con le sue invenzioni. Anzi, con le sue scoperte. Lui ci tiene a sottolineare che non è un inventore, ma semmai uno scopritore, perché tutto è già presente in natura, si tratta solo di riuscire a utilizzarlo. Gli hanno parlato di una ditta dove potrebbe mettere a frutto il suo ingegno. È una delle tante ditte americane che in quegli anni stanno mettendo radici anche in Europa. È la Continental Edison Company. Tra i settori industriali ad essere più rapidamente internazionalizzati in quegli anni ci sono l'elettricità e l'elettrotecnica. Anche se appena nati, proprio perché rivoluzionari per il progresso, sono subito oggetto di scambi tra i paesi. Manager e imprenditori americani arrivano in Europa per rappresentare anche qui le loro aziende, per far decollare produzione e mercato. Stabilire relazioni con i potenziali competitor è una delle priorità fissando delle regole, stringendo accordi e creando addirittura cartelli internazionali per contenere la concorrenza entro limiti accettabili. Tesla ancora non sa che sta dando l'avvio al suo destino, quello che lo porterà negli Stati Uniti a incontrare l'altro protagonista di oggi. Finché un giorno arriva dalla parte di sua sorella una notizia. La mamma sta male, vuole vederti. Corri a casa, Nicola. L'attaccamento alla madre, la persona dalla quale ha preso gran parte delle sue doti e che l'ha sempre spinto a seguire questa strada, fa correre subito Nicola al suo capezzale. Giusto il tempo per sentirsi dire quanto lei fosse orgogliosa di lui, del suo piccolo Nico, e la signora Tesla aspira. Per l'inventore è un dolore enorme. Si ammala di esaurimento nervoso ed è costretto a rimanere qualche settimana nel suo paese d'origine. Non fa che avere quelle visioni che non lo abbandonano mai fin da quando è bambino. Una volta ripresosi dallo shock per il lutto, fa ritorno a Parigi. Ha con sé alcuni dei disegni dei suoi progetti e un grande sogno, quello di poter andare nel nuovo continente. Intanto riprende il suo lavoro alla Continental Edison Company, dove continua il suo lavoro di miglioria degli apparati elettrici, sviluppando diversi dispositivi a induzione. La corrente alternata sembra essere la nuova frontiera. Si sente sicuro della sua intuizione. Nell'azienda americana per cui lavora e dove ha avuto modo di realizzare alcune delle sue invenzioni, entra in sintonia con Charles Batchelor, braccio destro del fondatore della compagnia, il cui compito è proprio quello di tenere gli occhi aperti su persone in grado di servire la causa dell'elettricità, intesa come causa della ditta, e cioè del profitto. Per Tesla la vera preoccupazione è invece solo il bene dell'umanità. Nel 1884 arriva l'occasione tanto attesa. Andare negli Stati Uniti per far conoscere le sue scoperte e per incontrare l'uomo per cui lavora da anni e che per lui è un vero e proprio mito, come ci racconta Sperini. Il nostro Tesla arriva negli Stati Uniti. Ha con sé soltanto un libro di poesie, 5 centesimi in tasca, un piccolo quaderno con degli appunti per realizzare una macchina volante di sua invenzione e una lettera di presentazione per Thomas Edison. Tesla vende gli ultimi suoi averi per finanziare il suo viaggio in America. Parte una fresca mattina di primavera sulla Gare del West. Sale sul treno che lo porterà alla nave, la Saturnia, che a sua volta lo porterà oltre oceano, dove avrebbe poi raggiunto l'ufficio del signor Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. È Charles Batchelor a spingerlo in questa direzione, scrivendo appunto per lui una lettera di presentazione per il capo della compagnia che lui rappresenta a Parigi. E anche in questo caso il carattere di Tesla non si smentisce, come annota nella sua autobiografia. Mentre passano le giornate in mare prima di arrivare a New York a incontrare il suo destino, fa l'inventario di quello che ha con sé e fantastica su Edison. Mi piaceva immaginare che mi avrebbe accolto come un figlio perduto, baciandomi su entrambe le guance. L'America lo accoglie con un benvenuto. And how big a family have you got? No family at all. I have not met. All right. You're all set. Welcome to the United States of America, Mr. Tesla. Thank you very much, sir. All right, who's next? Ancora non sa che proprio con l'uomo che lui ammira per le sue scoperte nel campo dell'elettricità non andrà proprio come aveva sperato. Destini incrociati. È il 1884 e siamo a New York. Un giovane e visionario inventore di origini serbe, Nikola Tesla, è appena arrivato negli Stati Uniti per incontrare lo scaltro inventore e imprenditore Thomas Alva Edison, nella speranza di poter lavorare con lui. Tesla ha con sé una lettera di presentazione, scritta dal braccio destro di Edison, Charles Batchelor, che ha riconosciuto il genio del talentuoso europeo. Sta per avere inizio la guerra delle correnti. Appena sbarcato dalla nave Saturnia, Nicola sente che quella città gli può dare la sua grande occasione. Le sue sperimentazioni sulla corrente alternata fatte a Parigi non possono che interessare Edison e la sua compagnia. Ha subito la sensazione che New York sia un vulcano, come lui. Le strade coperte da un rudimentale ciottolato sono colme di gente e carri. I profumi che vanno a colpirlo subito al suo stomaco vuoto sono quelli delle pannocchie arrosto, della carne alla griglia, delle nocciole caramellate. Ma Nicola non si fa distrarre. Ha un obiettivo: arrivare il prima possibile dal suo mentore. Si dirige così in fretta sulla Quinta Avenue al numero 65. Una volta arrivato davanti alla porta sulla quale trova solo un cartoncino con l'inchiostro sbiadito che dice TOS.ed, ha un po' di esitazione. Il suo sogno si sta avverando. Uno stormo di colombi gli plana vicino. Il cuore ha un sobbalzo e poi di nuovo quei lampi davanti agli occhi. La vita gli sta dicendo che è sulla strada giusta, lo sente. L'incontro tra questi due grandi uomini e la loro storia sono raccontati nel film Il segreto di Nikola Tesla, prodotto e interpretato da Orson Welles, che ci mostra un Edison piuttosto freddo e formale nei confronti del giovane e appassionato inventore. Mr. Tesla, Mr. Edison will see you now. Tesla viene annunciato dal maggiordomo. Edison lo attende in piedi davanti alla sua scrivania, un sopracciglio alzato, come a voler dire «Cosa vuole questo da me?» e l'aria un po' testarda di chi si sente arrivato. Edison è un bell'uomo con i capelli grigi e la fronte larga che si strofina in continuazione e con la bocca sempre contratta in una smorfia di rimprovero. Non appena Nicola varca la soglia del suo studio, si sente subito in soggezione, ma ha con sé la lettera che potrebbe sciogliere l'americano, che non esita a leggerla ad alta voce. This is from the manager of my company in Paris. Questa arriva dal manager della mia compagnia a Parigi e dice: «Caro signor Edison, ho conosciuto solo due grandi uomini nella mia vita. Uno siete voi e l'altro è il giovane Nikola Tesla». Parole lusinghiere. Edison sembra conquistato. Tesla adesso è esattamente dove avrebbe sempre sperato di essere. Si danno quindi un appuntamento per l'indomani nel laboratorio di Edison per mettersi subito al lavoro. Entrare in quel laboratorio, come racconta Tesla, è stato come entrare in un circo. Varcare la soglia del laboratorio di Edison fu come entrare nel circo nel bel mezzo del gran finale. Ogni cosa era in movimento. Uomini in abito scuro correvano da una parte all'altra, intenti ad armeggiare con batterie di accumulatori alcalini, gettare forme negli stampi nel laboratorio di metallurgia, realizzare a macchina minuscole viti destinate alla puntina di un grammofono di ultima generazione, battere su una fila di macchine per scrivere Royal, discutere animatamente tra loro. Questa è l'America. E quello che sente tra quelle mura è il rumore del capitalismo. Niente di più distante dal giovane Tesla che con i soldi ha poca dimestichezza e che punta invece alla purezza e all'utilità delle sue invenzioni, a differenza di Edison, già affermato imprenditore di se stesso, oltre che inventore. Già dai primi giorni insieme a parlare di corrente alternata come efficace alternativa alla corrente continua, si capisce che il giovane di origini serbe è un po' fuori luogo, se non addirittura fuori dal tempo. Al momento in cui incontra Tesla, non ha bisogno di presentarsi. Nikola, e così il mondo intero, già conoscono i contributi che egli ha dato al progresso. È il novembre del 1877 quando mostra ai suoi collaboratori un marchingegno capace di registrare una voce e di riprodurla, il fonografo. Una scoperta che gli dà la notorietà e la fama che aveva inseguito da sempre. Per i 50 anni dalla sua invenzione, il 12 agosto del 1927, Edison si presterà a registrare la sua voce mentre recita una filastrocca per bambini. The original phonograph, a little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its feet were white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Originario dell'Ohio e parzialmente sordo da un orecchio fin da bambino, è proprio con la registrazione e l'invenzione della macchina per la riproduzione delle onde sonore che diventa famoso. Il fonografo è un aggeggio talmente inaspettato dalla gente dell'epoca da apparire quasi magico. Edison diviene così noto come il mago di Menlo Park, dal nome della città del New Jersey, dove nel frattempo si è trasferito. Nel 1878 è la volta della lampadina a bulbo incandescente. Anche quando la qualità delle invenzioni non è straordinaria, Edison dimostra abilità nel brevettarle e nel battere tutti i suoi concorrenti per la migliore presentazione sul mercato. A essere pignoli, Edison non ha inventato la lampadina elettrica. Numerosi progetti erano già stati elaborati da altri inventori. Edison riprende solo le caratteristiche di questi precedenti lavori e indirizza i suoi dipendenti verso l'obiettivo di realizzare una lampada che abbia una durata maggiore. Non smette mai di fare l'imprenditore. Dopo aver comprato il brevetto di Woodward ed Evans del 1875, i suoi impiegati sperimentano un gran numero di differenti materiali allo scopo di aumentare la durata delle lampade e raggiungono in breve l'obiettivo di rendere il prodotto commercializzabile. Mentre i primi inventori hanno prodotto l'illuminazione elettrica in laboratorio, Edison è stato capace di portarla nelle case e negli uffici con una produzione di massa di lampade a lunga durata e creando un sistema per la generazione e distribuzione dell'elettricità. Questo è l'uomo che ora lavora fianco a fianco con Tesla. L'uomo che ripete in continuazione come un mantra: la creatività è per l'1% ispirazione e per il 99% traspirazione. Ed è proprio la sua grande capacità di applicare le idee, di concretizzare, di ricavarne qualcosa che lo porta nel 1882, 2 anni prima di incontrare Tesla, ad accendere il primo sistema di distribuzione di corrente elettrica del mondo. Corrente ovviamente continua. Quando Tesla propone la corrente alternata di sua invenzione come la vera rivoluzione in termini di efficienza, una rivoluzione che potrebbe illuminare tutta la città di New York senza disperdere nulla nella trasmissione sulla lunga distanza, Edison ha un sussulto. Al posto delle centinaia di centrali elettriche in uso nella città, ne basterebbe solo una. Perché Tesla insiste, con la corrente continua si spreca l'energia che ci viene data dalla natura. La corrente alternata ci rimette in armonia col mondo. La risposta di Edison è immediata. Distruggere tutte le mie centrali solo a causa di questo suo motoretto? Ma sa come mi chiamano? Mi chiamano il re dell'elettricità. Ho trasformato il mondo e tutto quello che ho ottenuto l'ho ottenuto con la corrente diretta. Sta andando in una direzione sbagliata, mi creda. È un binario morto. Troppi coinvolgimenti nel mondo scientifico per Edison, ma soprattutto nel mondo finanziario per rinunciare alla rendita del suo brevetto. I magnati dell'epoca avevano già investito parecchio nella tecnologia della corrente continua. È solo l'inizio dell'incompatibilità dei due caratteri che di lì a poco porterà i due inventori su strade diverse. La visione industriale dell'uno e la visione pura in direzione dell'umanità dell'altro, in una guerra che verrà definita la guerra delle correnti. Soldi e ideali che si combattono. They said, son, look like that love got a hold on you. Money's too tight to mention. I can't get an unemployment extension. Money's too tight to mention. Destini incrociati. Siamo a New York, è il 1884. Nikola Tesla, giovane inventore di origini serbe, è appena arrivato in America per lavorare con l'affermato Thomas Edison. L'intesa tra i due grandi scienziati è immediata, ma le loro visioni sul mondo sono totalmente differenti. Quando Tesla propone a Edison di sostituire la corrente continua con la corrente alternata di sua invenzione, l'americano vede sfumare il suo profitto e decide così di opporsi alla diffusione dell'invenzione più rivoluzionaria di sempre. L'ingenuità e la purezza di Tesla, appena entrato in contatto con il calcolo imprenditoriale di Edison, portano il giovane scienziato immigrato ad avere molte delusioni. La più grande è quella che lo scaltro mago di Menlo Park liquiderà con una battuta. In cambio della riorganizzazione del laboratorio e della revisione di alcuni progetti, Edison promette un compenso di $50,000 a Tesla, il quale, pur non avendo un grande rapporto coi soldi, li vede come la possibilità di realizzare qualche sogno. Raggiunto l'obiettivo richiesto, Nikola reclama il suo premio, ma si sente rispondere una frase che rimarrà impressa per sempre nella sua mente. Lei, Tesla, si deve ancora abituare al senso dell'umorismo americano. L'inventore del fonografo e della lampadina non è l'uomo che Tesla si aspettava. Troppe divergenze per rimanere al suo fianco. Così, dopo qualche mese di collaborazione, Nikola lascia senza rimpianto quello che credeva sarebbe stato il suo mentore per dirigere altrove le sue attenzioni alla ricerca di qualche finanziatore. La corrente alternata continua a essere l'innovazione più rivoluzionaria che ha in testa e il mondo lo deve sapere, come ci racconta Jelenkovic. Sappiamo con certezza che il grande industriale George Westinghouse era molto convinto della validità delle idee di Tesla e per questo fu un suo grande finanziatore. George Westinghouse decide di sostenere il giovane inventore e nasce la Tesla Electric Light and Manufacturing. Ma per Edison adesso c'è un rivale, qualcuno che minaccia i suoi interessi e i suoi investimenti. Come ricorda Sperini, l'inventore americano cerca in ogni modo di correre ai ripari. Quando Edison si rende conto che il suo sistema in corrente continua non può competere dal punto di vista dell'efficienza con quello della tensione alternata di Tesla, che inizia, pur di difendere i suoi interessi economici, una campagna denigratoria contro la corrente alternata. Chiede allo Stato di New York di fare una legge contro il suo utilizzo domestico. La campagna denigratoria prosegue poi con volantini distribuiti per le vie della città, dove si mette in guardia la gente dall'uso della corrente alternata, fino ad arrivare a fare vere e proprie dimostrazioni in piazza. Edison, attraverso l'uccisione di animali, vuole introdurre l'idea che la tensione alternata è qualcosa di molto pericoloso, che va rifiutata, che va rigettata. La corrente alternata è mortale, questo è l'obiettivo della campagna di disinformazione che Edison sta attuando nei confronti di Tesla, uccidendo con delle rudimentali sedie elettriche una serie di animali davanti agli occhi di un pubblico incredulo. L'uccisione più clamorosa sarà quella dell'elefantessa Topsy, un'elefantessa che il circo di Coney Island doveva fare abbattere e che Edison decide di bruciare con delle scariche elettriche sotto gli occhi esterrefatti dei newyorkesi. Ma nonostante questo, la superiorità della corrente alternata è indiscutibile. Esperimento dopo esperimento, Nikola Tesla ha sempre più dimestichezza con la trasmissione elettromagnetica senza fili. Il mondo è il suo filo. Molti lo credono un pazzo, un visionario, ma l'inventore slavo ha davvero molti sogni che si riveleranno poi delle realtà. Lo sa bene l'italiano Guglielmo Marconi, che più volte andrà a fargli visita per discutere delle sue teorie sulle onde radio. Il XX secolo è appena cominciato, quando Tesla fa una dimostrazione con un modellino di sommergibile radiocomandato e si fa notare dal grande imprenditore americano J.P. Morgan, che nel film sulla vita dell'inventore, Il segreto di Nikola Tesla, è interpretato da Orson Welles. Tesla, this little boat of yours. Tesla, quella sua barchetta, Adam mi ha raccontato, può farla anche su scala maggiore? Può effettivamente muovere energia elettrica da un posto all'altro? Può prendere l'energia dalle cascate e muoverla nei miei stabilimenti a Pittsburgh senza alcun filo? Non ci sono limiti alle applicazioni. Qualunque cosa, la voce umana, le immagini, sono tutti impulsi elettrici. E dov'è questo posto in cui vorrebbe lavorare? Colorado Springs. Ascolti, Tesla, se può farmi mandare parole senza alcun filo da una città all'altra ed oltre oceano, beh, mi dia questo e io le darò Colorado Springs o perfino Timbuktu. Colorado Springs o Timbuktu. L'America sembra essere davvero la terra promessa. Tesla decide così di diventare cittadino americano. Le visioni e i bagliori di luce continuano, seguiti dalle sue invenzioni. Nicola si trasferisce a Colorado Springs, ma sarà con la costruzione della torre di Warden Cliff a Long Island, costruita grazie anche ai $150,000 investiti da J.P. Morgan, che porterà avanti il suo progetto. La trasmissione di potenza senza fili. I giornali dell'epoca etichettano la sua impresa come la follia di Tesla da $1,000,000. Ma nel dicembre del 1901, Guglielmo Marconi spedirà il primo messaggio transoceanico via radio. Una S composta da tre punti nell'alfabeto Morse. S come sconfitta per Tesla, che si vede soffiare il brevetto per la radio. Ci vorranno più di 40 anni perché la Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisca che Marconi copiò la tecnologia della radio da precedenti brevetti dello scienziato di origini serbe. Eppure per Tesla non è finita. Le sue visioni lo portano a sostenere di avere captato messaggi da Marte. Sempre più stralunato e fuori dal tempo agli occhi della gente, il ricordo della guerra intrapresa da Edison ai suoi danni è sempre presente. Quando viene menzionato da un dispaccio di agenzia come potenziale candidato per condividere il premio Nobel del 1915 insieme a Edison, non ci vuole credere. Nonostante gli enormi contributi scientifici di entrambi, il Nobel non viene loro consegnato, a causa dell'animosità reciproca. I due scienziati, infatti, non sono d'accordo a ricevere il riconoscimento se il collega lo riceve per primo, e comunque nessuno dei due vuole prendere in considerazione l'opportunità di condividerlo. Per Tesla comincia il declino. A questo si aggiunga che J.P. Morgan decide di abbandonarlo economicamente. C'era un'idea che pensavo di tirare fuori da tutte quelle visioni e lampi di luce che lei ha, Tesla. Comunicazione a grandi distanze senza fili. Ma è stata inventata non da lei, Tesla, ma da qualche italiano. Marconi, whatever. Comunque, ha inventato una qualche scatola. E adesso mi tocca comprare i brevetti da lui. Questo è il destino che lo aspetta. La gente comincia a dimenticarlo, ad abbandonarlo. Nei cinegiornali dell'epoca, intanto, quando si parla di elettricità, si parla solo di Edison. Shining electric light. The world owes this and more to Thomas Edison. Gli ultimi anni di vita di Nikola Tesla sono costellati di nuove invenzioni che lo portano sempre più vicino al bene dell'umanità, ma sempre più lontano dagli interessi economici e politici. Come il progetto dell'elettricità gratuita per tutti, o il famoso raggio della morte, uno scudo ottenuto dalla stimolazione del campo terrestre, che avrebbe protetto ogni città da qualsiasi attacco aereo. Siamo agli inizi del 1943 e la Seconda Guerra Mondiale è nel pieno della sua follia. Tesla telefona al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, forse per raccontare di questa scoperta che rivedrebbe la concezione delle armi in direzione della pace. Tesla ormai abita da anni nella stanza 3327 del New Yorker Hotel. Una stanza dove uno scaffale a muro zeppo di cassetti contiene tutte le sue carte, i suoi progetti, le sue scoperte. Le etichette ingiallite di ognuno riportano dei nomi: filo di rame, magneti, moto perpetuo, raggio della morte, varie. Suoi unici amici sono i piccioni, cui dà da mangiare al parco o alla finestra della camera, poiché lo vengono a cercare. Ha ormai oltrepassato gli 80 anni. Edison è morto da qualche anno, ma nella sua testa continua a intrattenere conversazioni con lui, così come con J.P. Morgan e con Marconi, con tutti quelli che l'hanno osannato e poi dimenticato. È il 5 gennaio del 43 e fa quella telefonata. Verrà trovato morto 3 giorni dopo nella sua stanza, vicino a un sacchetto di semi e noccioline, cibo per i suoi fedeli compagni con le ali. Tutte le sue carte vengono sequestrate dall'FBI. Qualcuno diceva che era pazzo, eppure a partire dalla corrente alternata, la corrente che oggi tutti noi usiamo, Nikola Tesla ha inventato il XX secolo. Sicuramente anche lui indossava un paio d'ali. The heart of mine to fly, he wears a pair of silver wings. And though it's pretty tough, the job he does above, I wouldn't have him change it for a king. An ordinary fellow in the uniform I love, he wears a pair of silver wings. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.